detto, sogno veramente dedicato. Sognavo di essere magico, ma ho scoperto poi era il sogno di milioni di bambini. Da giovane avevo una certezza, nessuna donna, non nessuno spago. Guardando gli aquiloni non mi accorsi della mano tua, pian piano mi stringevo. Può darsi che risorga dalla polvere, dal fango denso della solitudine, un fuoco di passioni e di attenzioni. Io vorrei essere l'uomo che non sono mai stato, silenzioso e calmato, sorridente e sicuro, col suo fare maturo, col suo sguardo grintoso, un perfetto cretino. Io vorrei scoppiare in cielo, non essere mai esistito, e volare su in alto, poi cadere nel vuoto. Non ho ancora deciso il finale, se devo sbriciolarmi nel fuoco. Scusatemi, scusatemi. Da grande solamente una speranza, d'essere guidato da cuore sincero. Saluto tutti e come sempre gli altri candidi non mi saluta mai. Perfetto. La vecchia avrò un bruttissimo disprezzo per questo sentimento disperato. Può darsi che il deserto mio si geli, questo cielo pianga lacrime di vetro. Può darsi che si formi in quel castello che nessuna pietà potrà distruggere e affonderà nel nome del mio ricordo. Io vorrei essere l'uomo che non sono mai stato, silenzioso e garbato, sorridente e sicuro, col suo fare maturo, col suo sguardo grintoso, un perfetto cretino. Io vorrei scoppiare il cielo, non essere mai esistito, e volare su in alto, poi cadere nel vuoto. Non ho ancora deciso il finale, se devo sbriciolarmi nel fuoco. Scusatemi, scusatemi, scusatemi. Vorrei scoppiare in cielo, non essere mai esistito, e volare su in alto, poi cadere nel vuoto. Non ho ancora deciso il finale, se devo sbriciolarmi nel fuoco. Scusatemi.